l'assalto di questa vita. Inseguiamo la gloria, la ricchezza, l'abbondanza. Noi, una direzione precisa. Ci colga l'attimo di smarrimento, sia il benvenuto a farci riflettere. Je vais coûter la vie, ma précieuse vie.